L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Nella puntata di questa settimana dell'Altro Pianeta affronteremo due temi diversi. In questa prima parte parleremo di pannelli fotovoltaici galleggianti. Nella seconda di sacchetti di plastica, una materia su cui l'Italia è partita presto e bene, senza però concludere il percorso, ma ora c'è arrivata anche l'Europa e quindi forse potrebbe essere la volta buona per arrivare fino al traguardo. Dicevamo però dei pannelli galleggianti. È una possibilità che segnala l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario, che si chiama AMBI, che consiste nell'integrare pannelli fotovoltaici in specchi d'acqua interni. Quindi parliamo di laghetti, di stagni, di lagune e così via. È con noi il presidente dell'AMBI, Massimo Gargano, a cui diamo il benvenuto e cui chiediamo subito che cosa si sta facendo. Intanto si sta facendo moltissimo e si può fare ancora molto di più rispetto ad una risposta alla crescente domanda di energia sostenibile, quindi diversa da quella fossile, e che risponda anche a un altro tipo di esigenza che non il mondo dell'agricoltura, si badi bene, ma sostanzialmente l'intera collettività di questo paese non solo chiede con forza, che è quello di ridurre il consumo del suolo. Questi pannelli fotovoltaici galleggianti vengono poggiati su degli specchi d'acqua che in genere sono i nostri impianti di sollevamento, ma possono essere dei laghi artificiali, possono essere dei laghi ottenuti dal recupero delle cave, lo fanno quindi senza consumare suolo, avendo oltretutto un altro grande vantaggio che può essere non colto in tutta la sua importanza, ma mi creda è fondamentale. L'evapotraspirazione è una grande causa di perdita di acqua, non sia per l'acqua che poi serve per tutti gli usi dell'acqua, quali che si siano, usi plurimi, dalla ricarica della falda all'acqua irrigua, al raffreddamento degli impianti. Bene, questi pannelli rispondono anche a quel tipo di esigenza, perché essendo poggiati sull'acqua hanno la capacità, che si può dimostrare in maniera assolutamente puntuale, di ridurre l'evapotraspirazione dell'acqua e quindi avere anche una capacità di conservarla quest'acqua. L'ultimo progetto che è stato messo in campo, vedo, è quello di Ravenna, no? Ma guardi, nel consorzio della Romagna Occidentale ne stiamo parlando in queste ore, perché ha avuto anche un'altra originalità, quella di dare un nome simpaticissimo al suo progetto. Lo ha chiamato La Foglia, la foglia che per produrre energia da una fonte naturale, e quindi da questo punto di vista i tecnici hanno detto: si parte da una foglia per poter poi assistere a un proliferare man mano che il consorzio trova le risorse, no, per poter far ciò, perché poi queste vicende costano. Però mi creda, siamo partiti anni fa sempre in Emilia Romagna con il quadrifoglio, l'esperienza è continuata in tutta Italia, io stesso a Roma ne ho inaugurati almeno tre, tranne al consorzio del Tevere Agro Romano, al consorzio di Pratica di Mare, al consorzio di Fondi, quindi ci sono una serie di esperienze che ormai interessano tutto quanto il paese e che sono tutte quante di valore. Quindi, vista l'esperienza così appunto lunga, sono stati testati, anche perché mi faceva presente qualcuno, al fatto che debbano essere esposti alle intemperie o che comunque stiano galleggiando, perché comunque sono una situazione migliore rispetto a quella marina nella quale hanno origine, giusto? Ma certo. Anche bisogna dire che la tecnologia è stata all'avanguardia. Non esiste in nessuno neanche il problema di un proliferare delle alghe al di sotto, proprio perché per come sono stati pensati non hanno quelle debolezze che avrebbe lo stesso impianto se fosse sul mare, e dall'altra parte quello che poteva essere un rischio appunto proprio derivante dall'acqua ferma, per come sono pensati determinano anche la capacità appunto che non sussiste minimamente il rischio del proliferare delle alghe, no? E chi le porta avanti queste esperienze? Sono i consorzi stessi? Come funziona? Guardi, sono i nostri straordinari uffici tecnici che in qualche modo anni fa partirono con un progetto pilota, da lì uno scambio di idee, di opinioni, no? Che noi siamo una rete di 148 consorzi e quindi è una rete anche di conoscenze, di sapere, di travaso di queste conoscenze. E sono i nostri uffici tecnici che da questo punto di vista sono entrati in prima linea. È chiaro, poi quando io prima le ho parlato di rispondere all'esigenza del consumo del suolo, quando grazie agli incentivi statali ad esempio molti si sbrigarono a fare questi impianti su terreni e su terreni che invece devono rispondere all'esigenza di produrre, creare occupazione, creare cibo, noi iniziamo a pensare ad immaginare proprio che questi specchi di acqua potevano essere la risposta alle nostre esigenze e all'esigenza di ridurre il consumo del suolo, ed è quello che abbiamo fatto. L'energia prodotta cosa alimenta? Guardi, l'energia prodotta alimenta i nostri uffici, alimenta i nostri impianti di sollevamento delle acque quando fanno difesa del suolo, alimenta i nostri impianti di pompaggio e distribuzione dell'acqua irrigua, insomma alimenta un circolo virtuoso, assolutamente, che ha come obiettivo quello di ridurre i costi fissi, ridurre i costi fissi delle imprese, ridurre i costi fissi del nostro consorzio per l'opera di affrancamento del territorio dal rischio idraulico, perché quando quest'acqua la solleviamo lì c'è un costo energetico importante, lo riduciamo quel costo in maniera sensibile. Questo quindi ha un impatto positivo proprio sul portafoglio del nostro contribuente, allontana aumenti di bolletto ma allontana aumenti di costi. Come diceva lei, appunto, questo tipo di impianti è costoso. Come l'avete realizzato? Con fondi vostri? Guardi, su questo impianto ci siamo mossi in tutte le direzioni, dalle risorse comunitarie alle risorse statali, ad opportunità che sono nate nel rapporto con le regioni, con risorse nostre. Quindi c'è uno spettro molto ampio. D'altronde, quando una scelta diventa strategica, l'ufficio ha anche come missione, i nostri uffici tecnici hanno anche come missione quello di andare a cogliere l'opportunità laddove essa si pone. Massimo Gargano, presidente dell'ANBI, la ringraziamo per essere stato con noi. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta. Nella prima ci siamo occupati di pannelli fotovoltaici galleggianti. Potrete riascoltare tutto sul nostro sito internet radio24.it nella pagina del programma L'altro pianeta da domani, da lunedì. Adesso appunto cambiamo argomento, ci occupiamo di una novità della settimana, ovvero della decisione della Commissione europea di dichiarare, diciamo così, guerra alle buste di plastica in materiale leggero, quelle più usa e getta per così dire, adottando una proposta di legge che obbliga agli Stati membri a ridurne l'uso. Una proposta che in pratica va a modificare l'attuale direttiva sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, introducendo due elementi, ovvero l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure che riducano il consumo delle buste in plastica più leggero e però la libertà da parte degli Stati membri di scegliere il modo, le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo appunto della riduzione dell'uso delle buste in plastica più leggere. Commentiamo questa decisione della Commissione europea con Marco Versari, che è presidente di Asso Bioplastiche. Lo raggiungiamo a Ecomondo a Rimini, una manifestazione che tra l'altro si concluderà proprio oggi. Versari, per l'Italia si tratta di una grande soddisfazione. Si va in pratica a certificare che l'Italia aveva già preso un cammino corretto prima di quanto non abbiano fatto altri paesi membri dell'Unione europea. È un grande riconoscimento, ecco, per il nostro modello, perché l'Italia la prima uscita sul taglio del consumo delle buste asporto merci data 2007, ecco, quindi l'Italia si è mossa con largo anticipo, ecco, rispetto a questa presa di posizione dell'Unione Europea. Tra l'altro c'è stata una procedura di infrazione nei nostri confronti che forse verrà sospesa, congelata, visto il nuovo indirizzo preso dalla Commissione. Se leggo, leggendo quello che dice il commissario Potocnik, che l'ha detto chiaramente, ecco, e quindi, come dire, l'Italia anche da questo punto di vista si potrà muovere con molta più libertà e devo dire, da presidente di associazione, finalmente, anche perché uno dei problemi che noi abbiamo è dato dalla diffusione nel territorio italiano di prodotti non conformi alla legge. Non lo devo, se lei va in giro per qualche mercato e così via, di prodotti veramente a norma ne trova ben pochi ancora. E tra l'altro continuiamo, vedevo secondo le statistiche, a essere dei grandi eccessivi consumatori di sacchetti. Ma perché? Perché i supermercati che hanno adottato la legge in toto hanno diminuito in maniera fortissima i consumi di oltre il 50%, e dall'altra parte favorendo le buste, quelle grosse riutilizzabili, che sono quelle che poi ormai usiamo quotidianamente. Ma proprio perché è la piccola distribuzione, è il commercio minuto che in mancanza di sanzioni non ha adottato questo principio, per cui lei si trova i supermercati che hanno diminuito drasticamente, ma tutto il resto continua ad andare come prima, ecco. E quindi è una situazione di chiaro scuro, ecco. Senta, e su questo punto come dobbiamo intervenire? Insomma, siamo stati dei precursori, però non abbiamo completato il percorso. E noi auspichiamo che proprio questo riconoscimento permetta anche all'Italia di andare a completare l'ultima fase della legge, che è il controllo e la sanzione nel caso in cui questo sia necessario. Ecco. È un riconoscimento di principio fortissimo su un modello che è quello italiano. Se io lo devo guardare come associazione italiana, ecco, diciamo che il principio è un principio, direi, ottimo, che poi si dovrà tradurre finalmente anche nel suo completamento, che è quello dei controlli e dei sanzionamenti. Voi come associazione gioite, però non c'è un esplicito riferimento alle bioplastiche in questa proposta. Questa è una proposta di direttiva che è volta al controllo dell'uso e talvolta abuso delle buste leggere in plastica tradizionale. Questa è una proposta di direttiva che è volta al controllo dell'uso e talvolta abuso delle buste leggere in plastica tradizionale. Lo trovo anche naturale il fatto che non venga data una specifica luce alle bioplastiche, perché uno potrebbe anche dire perché non enfatizzare anche borse riutilizzabili fatte in plastica riciclata, per esempio. Quindi su questo poi i vari modelli nazionali dovranno essere costruiti. Cioè, io auspico che si parli anche di plastica riciclata, perché se no, altrimenti perché raccogliamo la plastica? Ecco, dobbiamo trovare delle applicazioni, e quindi io auspico che, lei lo sa, la legge italiana prevede anche che le buste diciamo riutilizzabili abbiano specifici contenuti in plastica riciclata, ecco. Certo, e poi questo non starebbe nello spirito, diciamo, della commissione, dare un indirizzo così preciso, no? Loro cercano. È ovvio, anche perché lei sa, il modello italiano nasce anche dal fatto di sostenere la raccolta dell'umido. Cioè, l'originalità della legge italiana, ed è stata riconosciuta questa originalità, non è solo quello di colpire un prodotto che ormai è riconosciuto come un'icona, no, del nostro modo di consumare, ma è stato quello di dire: dobbiamo diminuire l'uso delle borse monouso, favorire quelle riutilizzabili, ma dare modo anche, per chi poi ha bisogno di qualche busta in più, di avere delle buste che abbiano un fine vita coerente con i modelli di gestione dei rifiuti, in particolare quella dell'umido. E la raccolta dell'umido si fa con sacchetti, e quindi è qui l'originalità riconosciuta del modello italiano. Ecco. Quindi, e come diceva lei correttamente, i vari paesi, a seconda del loro stadio di gestione dei rifiuti, potranno a loro volta poi enfatizzare certi più prodotti piuttosto che altri. L'imposizione di tasse, di imposte, comunque di vari balzelli cui si fa riferimento in questa proposta di direttiva, la convince oppure no? Guardi, oggi i modelli che sono stati presi in considerazione dall'Europa, a partire dal Libro Verde e poi dalla stessa Commissione, sono quello italiano e quello irlandese. Quello irlandese è una tassa to cure a tutti i prodotti immessi sul mercato. Questo ha fatto praticamente sparire le buste a asporto merci monouso. Dall'altra parte, il modello irlandese non prevede il mantenimento di un'industria di trasformazione nel territorio, cioè l'Italia è un paese con una lunga storia e una lunga tradizione chimica che non può essere cancellata, cioè la trasformazione dei materiali plastici è un qualche cosa che un grande paese industriale deve mantenere. Quindi l'originalità del modello italiano è quello di avere comunque mantenuto una trasformazione di materiali plastici, a questo punto però strettamente connessi con un modello di gestione integrata del rifiuto organico che ha bisogno di sacchetti, ma che non inquinino il compost, ma che anzi si comportino come gli scarti che contengono e quindi che siano biodegradabili e compostabili. Quindi questa normativa favorisce anche lo sviluppo tecnologico e fa in modo che le aziende che trasformano materiali plastici possano continuare a lavorare e offrire una soluzione che sia ambientalmente sostenibile e collegata con la gestione dei rifiuti. Le chiedo un'ultima cosa, al di fuori di questa specifica questione della direttiva, è cosa fate a Ecomondo? Ecomondo è l'appuntamento a cui noi, da quando ci siamo costituiti come associazione, non possiamo mancare. Questo è il momento di riferimento per l'Italia, ma anche per molti paesi mediterranei, per vedere quali sono gli indirizzi nella raccolta dei rifiuti, e un'associazione come Asso Bioplastiche non può non esserci, ecco, non solo per far vedere i prodotti, ma anche per dimostrare la propria partecipazione allo sviluppo dei modelli di gestione integrata dei rifiuti che si stanno sviluppando non solo in Italia ma in tutta Europa. Marco Versari, grazie per essere stato in collegamento con noi da Ecomondo, da Rimini. Quindi abbiamo parlato con il presidente di Asso Bioplastiche, vi ricordo, di questa proposta di direttiva arrivata nel corso della settimana per fermare la diffusione e il consumo dei sacchetti in plastica, quelli troppo sottili, quelli per così dire usa e getta. Per riascoltarci c'è il sito internet e la pagina del programma L'Altro Pianeta, per scriverci l'altropianeta@radio24.it, per sentirci in diretta l'appuntamento la prossima settimana alla stessa ora da Laura Bettini. Un buon proseguimento d'ascolto.